La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ci sta una terra di nessuno, da qualche parte nel cuore, come un miraggio incastrato tra la noia e il dolore. Domani ce lo diranno, dove dovremo passare. Quando Anna Maria arriva in Italia dalla Romania è ancora una bambina, è la sua prima volta. La vita che aveva vissuto sino ad allora cambia radicalmente. Finalmente, dopo anni, rimasta coi nonni, può stare con sua madre e suo padre. Ed è l'arrivo in Italia che determina il grande cambiamento nella vita di questa bambina che, crescendo, deciderà di avere il coraggio di portare avanti le sue idee combattendo i pregiudizi interni alla sua comunità ed esterni, ovvero quelli degli italiani nei confronti dei Rom. Io stavo dai miei nonni, fino ai 6 anni sono stata proprio con i miei nonni, i miei genitori erano in Italia e quando avevano qualcosa me la mandavano. Quindi sono stata fino ai 6 anni in Romania con i miei nonni e poi ad un certo punto i miei genitori, io ero triste perché non vedo i miei genitori quasi mai, allora mi hanno preso con loro qua. Sono arrivata qua e cioè mia madre ha detto mandiamola a scuola perché cioè è una bambina, deve andare. Allora lì sono andata a scuola a Lambrate, sì. E lì ho incontrato una la mia amica che l'ho incontrata lì, che era proprio in un'altra classe però. E lei ha visto che la sua madre ha visto che mia madre mi porta a scuola, anche se cioè non tutti i Rom portano a scuola i suoi bambini perché dicono perché da noi le ragazze devono stare a casa, devono imparare a cucinare per sposarsi, perché da noi si sposa a un'età piccola. Allora, però mia madre no, ha detto cioè è dall'inizio da quando sono nata che dice che no, non succederà perché io voglio andare avanti con la mia vita, cioè farmi una vita. Allora abbiamo conosciuto questa signora, ci ha aiutato perché noi cioè, all'inizio non stavamo in casa, cioè è tutto difficile. Dove stavate all'inizio? Stavamo in un campo a Segrate, Lambrate, sì. Lì non mi ricordo neanche. All'inizio questa signora ci ha ospitato, sono passati gli anni, poi non mi sono neanche resa conto quando l'ho imparato l'italiano, quando sono andata in una casa, però è stato difficile in verità. Ma quando sei arrivata in Italia e sei arrivata a scuola, com'è stato per te entrare a scuola? Cosa hai pensato? Cioè io non sapevo niente, ero tipo lì, guardavo la gente, tipo alcuni mi salutavano, io ciao, cioè solo ciao sapevo dire. Proprio però non mi sono neanche resa conto quando l'ho imparato l'italiano, perché poi avevo anche delle maestre molto brave perché mi aiutavano sempre a parlare. Poi i compagni un po', c'è sempre questa difficoltà perché loro sentono sempre i Rom sono così, cos'ha, pensano male. E tu le sentivi questa cosa? Cioè che qualcuno aveva dei pregiudizi? Sì, all'inizio sì, però man mano che sono cresciuta, cioè io so come sono, allora non ascolto. Perché tu vieni da una famiglia in cui, appunto, come hai detto prima, è stata fatta una scelta, cioè tu sì. Devi studiare, devi continuare a studiare, quindi tu stai anche portando avanti un'idea anche di donna Rom che un po' si distingue da quella che era la donna Rom del passato. Sì, perché cioè, la donna Rom del passato praticamente si sposano proprio dopo i 13, 14, 15 anni, cioè già 16 anni è troppo in passato. Tanto però adesso, cioè anche adesso un po' succede ancora, ai 16 anni alcune ragazze si sposano. Però cioè io ho pensato con i miei genitori, mio padre, mia madre, abbiamo detto cioè è una cosa un po' stupida perché cioè se tu ti sposi ok, magari ti trovi bene perché hai il tuo marito, le cose, però cioè è un po' perché poi per trovare lavoro cioè come fai? Non puoi andare sempre tipo a chiedere alla gente un po' mi dai una monetina perché non ho da mangiare, cose del genere. È vero, alcune volte non ci sono, però non puoi sempre andare a chiedere, sì. Perché c'è gente c'è gente che non te le dà la monedina. E poi anche per te, per la tua intelligenza, che si vede che sei una ragazza bella sveglia, sarebbe un peccato insomma che tu non continuassi a studiare, giusto? Sì, perché cioè, a me non è che piace tantissimo, non è che sono una secchiona, però le cose che a me piacciono le faccio. Cioè non mi ha mai dato fastidio andare a scuola. Cioè infatti avevo delle volte che quando non andavo mi sentivo anche triste perché era... Cioè a me... Ti scandisce la giornata, sì. Ti dà un ordine nelle cose. Sì, mi rende felice, non so perché, però è proprio così. Diciamo, dopo una prima fase avete avuto la casa. E la casa, quando siete entrati in casa, com'è stato? Tua mamma era felice? Sì, cioè la mamma era felice perché non dovrebbe essere felice. Noi siamo bene, cioè per lei noi siamo la cosa più importante. Ha visto noi essere felici, allora... Cioè, lo doveva essere anche lei, poi ha trovato anche lei un lavoro lì. E chi è che vi ha aiutato? La comunità di Sant'Egidio? So che è stata molto al vostro fianco, cioè vi ha supportato tanto, non vi ha lasciato soli. No, non ci ha lasciato quasi mai soli, quindi c'è sempre stata. Secondo te quanto è stato importante sentirsi parte appunto di una comunità? Perché a volte la sensazione è che proprio sui Rom si faccia un muro di isolamento, di pregiudizio e forse questa solitudine pesa anche, no? su come uno si sente, su come uno poi decide di essere nella vita. Secondo me ha aiutato perché alcune persone infatti si sentono, vabbè, non mi aiuta, non mi lascia lì per strada con i miei bambini. Secondo me questa roba che loro vengono e dicono vieni qua, mangiamo, parliamo, chiacchieriamo, cioè secondo me ti fa sentire meglio perché proprio credi che qualcuno ti vuole aiutare, non ti lascia sempre solo lì perché ci sono proprio gente che ti guarda un po' tipo... Con disprezzo. Infatti. Ma tu hai approfondito la cultura Rom, cioè a te piace anche studiare magari parte della tua storia? Cioè a me piace, perché non dico che non sono Rom, sì. Però non sono come la gente crede, cioè perché... Se tu chiedi a qualcuno, secondo è uno che non ama i Rom, dico, cioè lui ti dice ruba, fa così, fa cosà, però cioè tipo a me non dà fastidio perché io non sono come gli altri, cioè so come sono. Molti pensano che tutti i Rom sono uguali, ma non è vero perché non è così. Poi tra l'altro la cultura Rom è una cultura antichissima, cioè un sacco di tradizione anche musicale, sì. Un sacco di cose bellissime. Sì, tipo le ragazze devono portare la gonna, oppure adesso le gonne anch'io me le metto perché mi piacciono un sacco, quando vai a un matrimonio, a una festa o qualcosa ti metti la gonna, balli lì. E che cosa fai adesso? Che scuola frequenti? Io frequento il commerciale, è una scuola che mi piace tanto. E ti trovi bene coi compagni? Sì, mi trovo bene, anche se non tutti, cioè la maggior parte non è che gli ho detto sì sono Rom perché pensano male, però gli ho detto che sono romena. Però cioè, anche se ad un certo punto c'è la mia migliore amica, credo che lo sa che sono un Rom, quindi... E ti dà fastidio non poterlo dire? Un po' sì, perché lo vorrei dire, solo che se pensano poi ad un certo punto dicono sì tu sei Rom e poi ti prendono un po' in giro, quindi è meglio un po' tenerlo nascosto. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. La prima volta. Ben ritrovati, la storia di questa sera ha per protagonista una ragazza, Anna Maria, una ragazza Rom di Milano, che nel corso della sua vita ha fatto i conti con il pregiudizio. Un carico pesante, una prima volta che inizia un po' così. non puoi sempre quasi, cioè io mi sento che non posso sempre dire quello che penso, cioè se io gli dico sì, io sono rom e loro tipo c'è una decisione da prendere, io non posso dire la mia opinione perché loro dicono tu sei rom, cosa ne sai? È così anche. È terribile. Eh sì. Quello che incontra Anna Maria è però anche la bellezza di essere accolta e ascoltata. In quest'ultimo caso, a giocare un ruolo centrale in questa storia è la comunità di Sant'Egidio e la rete di servizi che gli operatori saranno capaci di attivare attorno a questa ragazza e alla sua famiglia. Quando ho scelto questa scuola, l'ho scelta con i miei genitori. All'inizio dicevo sì dai facciamo, dicevo ai miei genitori sì facciamo un po' alberghiero questo perché è più facile per me così. Poi mio padre ha detto sì ma se tu fai alberghiero lo fanno tutti, tu hai un'intelligenza a parte. Quindi lui mi ha consigliato proprio vai tipo alle banche dove devi cioè, fare tutto parlare perché tu sai fare le cose. Allora io sono andata con questa signora che... Che ti aveva seguito quando eri arrivata in Italia all'inizio. Sì, che c'è da sempre lei con noi a fare un open day proprio a, e io avevo da scegliere tra il sociale e il commerciale. Poi ho guardato bene, poi il sociale non è che devi anche studiare ancora di più, però io non è che mi piace tantissimo studiare, però mi piace studiare quanto basta. Allora ho scelto il commerciale perché mi ispira. E come ti immagini sarà il tuo futuro? Dove lavorerai quando finirai? Questo ho detto, lavoro prima in un'azienda piccolina, poi quando mi farò io i miei soldi, le mie cose, voglio aprire un'azienda qua che tipo che prende le merci dalla Romania e in Romania che prende le merci dall'Italia. Ah, import-export. Sì. Sì, così. Cioè, più già o meno. L'idea è abbastanza chiara, quindi ti vedi già imprenditrice. Sì, però è un percorso lungo. Infatti, beh, però sembri una tosta, per cui non è detto che tu non riesca. Speriamo. Senti, a casa tu hai due fratelli, giusto? Più piccolini? Sì, più piccolini di me, sono proprio teneri, cioè sono piccolini. E vanno a scuola anche loro? Sì, anche loro vanno a scuola. Uno va in seconda media e l'altro in quarta elementare. E tu a loro cos'è che dici quando devi insegnare qualcosa sulla tua di esperienza? Cosa gli dici? Studiate? Andate... Sì, cioè glielo dico sempre perché loro sono anche maschi e i maschi non hanno quasi voglia mai di studiare. Io gli dico guarda studiate perché sennò cioè, non avrete un futuro. Allora io dico studiate perché sennò cioè, non, perché se non studi cioè, non fai niente. Non hai lavoro, non hai niente, quindi è meglio studiare. Glielo dico sempre, perché tutte le volte tipo i miei fratelli dicono ma io non capisco questa cosa. E io dico fai così così, ma non ho voglia. E io sì vabbè se te lo faccio io le so queste cose, quindi falle anche tu. E lui sì ma non ho voglia. E senti adesso non le fai, poi ti sgrida la maestra. E poi dico e adesso mi metto in contatto con la maestra e glielo dico. Lui sì sì adesso lo faccio. Ah sei proprio cattiva. Se lo dico un po' di volte loro non lo fanno. Scherzo no fai bene. Ma senti. Volevo chiederti questa cosa, c'è stato un momento da quando sei arrivata in Italia, un momento in cui hai detto non mi piace come si comportano qui nei miei confronti, cioè c'è stato un momento che hai sentito proprio di star male perché ti trattavano diversamente in quanto rom? Forse da piccola, cioè se ci ripenso adesso, tipo ai miei compagni di scuola e vedo la differenza, dicevano sì lei è rom, non toccatela così, però adesso quando diventi più grande infatti ci si pensa anche tipo in terza media era diverso perché avevo una classe che c'erano etnie diverse, cioè proprio tutti erano diversi, quindi non si faceva differenza. E lì mi sono sentita a mio agio perché non anche se loro dicevano che ero romena però lo sapevano che ero rom. Ma perché cioè cos'è che spaventa secondo te le persone della cultura rom? Secondo me li spaventano il fatto che tipo quando hanno dato al telegiornale che i rom rubano, che i rom fanno questo. Queste cose e loro cioè l'unica cosa, non vedono le cose belle che fanno anche i rom, perché cioè tipo io che sono un adolescente lo faccio con la comunità di Sant'Egidio e vado ad aiutare un esatto, po' esatto, loro non, cioè questa cosa non la vedono, vedono solo le cose brutte, è questo che pensano loro. Forse noi giornalisti dovremmo cominciare a raccontare anche di più tutte le cose che sono state fatte, no, in questi anni dai rom. Ad esempio una cosa che mi aveva sorpreso quando, quindi anche io in parte ho avuto una specie di pregiudizio quando ho letto che dei ragazzi rom stavano facendo delle, appunto, delle opere di solidarietà, piuttosto che adesso il 16 di novembre ci sarà un aperitivo delle donne rom a favore di un progetto in Africa. Sono tutte cose che raccontano proprio un percorso, no? Cioè voi state facendo in modo di romperlo il pregiudizio e di intanto aiutare anche gli altri. Come ci si sente ad aiutare gli altri? A me è sempre piaciuto aiutare la gente, cioè anche se io non è che sono, diciamo, come dicono tutti, vabbè tu sei a posto, hai la casa, però anche se è così a me piace aiutare, perché cioè, mi sento bene con me stessa quando aiuto la gente. Non so, mi rende anche un po' felice quando, perché ci pensi anche e dici vabbè io sto bene adesso, però anch'io ero così, quindi c'è stata gente che mi ha aiutata, quindi faccio anch'io quello che hanno fatto la gente per aiutarmi. Com'è stato ad esempio quando hai visto arrivare i profughi, perché erano persone che scappavano dalla guerra, tu cosa hai provato quando sei andata ad aiutare? Infatti io sono andata lì proprio per dargli da mangiare, poi erano tutti, quasi tutti, cioè non c'è proprio spazio anche per loro, e io mi sono sentita un po', cioè, triste, perché è una cosa un po' bruttina vedere la gente, anche se non è tuo paio, cioè anche se non è rom, però cioè, è gente, hanno una vita, poi pensare che vengono da un altro paese che c'era la guerra, quindi è ancora peggio. Erano famiglie intere con bambini. Alcuni sono anche morti, quindi cioè, se pensi così ti senti proprio triste e pensi, cioè io a volte faccio delle cose che non dovrei perché causo anche del male a loro, cioè tipo io mangio e non penso e gli altri non hanno da mangiare, però su questa cosa che cioè proprio io dove sono andata a vedere i profughi ci ho pensato, tipo delle volte io mangio e butto anche delle cose che non e loro non hanno neanche da mangiare a volte. E quando hai iniziato a fare opere di solidarietà con Sant'Egidio? Quanti anni avevi più o meno? Anche per chi sta ascoltando, magari un ragazzino che sta ascoltando e ha voglia di mettersi in contatto, se tu glielo consigli come percorso? Sì, glielo consiglio, perché non è che è tanto difficile, basta, cioè se vuoi, se si sente di aiutare una persona viene e lo fa. Allora io l'ho fatto all'inizio delle superiori, però anche con mio fratello, tipo, che è alle medie, si fanno delle cose, però altre cose io glielo consiglio. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so. Questa è la storia di una ragazzina che ha imparato da subito a guardare da vicino il dolore, come l'immenso dolore della scomparsa del padre. Un padre che ha aiutato molto Anna Maria nel credere in se stessa e nell'affrancarsi da un certo modo di essere. Un testimone che oggi Anna Maria, con l'aiuto della madre, sta passando anche ai fratelli. Questa storia è ancora tutta da scrivere e speriamo di aver in qualche modo aiutato ad abbattere i pregiudizi e a rinforzare la coscienza di sé in questa ragazza meravigliosa che ha il pieno titolo d'essere orgogliosa di se stessa e della sua cultura e del fatto che lei l'amore l'ha messo in circolo. A presto da Cristina Carpinelli.